terra con la forza nella voce, senza simboli di guerra porto avanti la mia croce. Caro amico, non puoi dire che qui pace non c'è, la tua ultima speranza ma per me è lei. Questa logo non si gira in questa scura città, di sera cambi faccia quando venimo a mal. Non è bene l'oggetto e non sta bene il fatto, io mi giro non mi volto, mangio sempre nel mio piatto. E già arrivata l'eclissi sulla nostra città, quindi sciò, uso il mezzo della box e ti pongo il mio stop. Quindi bene, qualche volta ti ricordo che ascoltare non viene, perciò è hip hop. La squadra che mi tiene mi protegge come Robocop. Prime vere dirette, niente sanscritto, sai che nella vita non accetto manifesti cliché. Non puoi dire che quel funk non c'è. Non c'è. E a questo punto non puoi dire che quel funk non c'è. Senza pace, senza terra, con la forza nella voce, senza stimoli di guerra, porto avanti la mia croce. Grido panico, panico. Perché mi scarico. Guardo avido a chi ne ha più di me. La legge è imposta, ma rispetto non c'è. Se la legge viene imposta a chi gregge non è. Cerco ami in questa zona e che sia roba buona, che ho ritmi di panico se non mi trasuona. Dal mi schermo con le mani quando passo di qui. Io mi fermo ad ascoltare e cazzo fuori strappi. La soluzione logica, come fa? Senti qua. Senti qua. Ci vuole una scarica di mitraglia. Ecco la mitraglia per chi non sta buono. Ascolta la mia spoppa che ti rimane al mio trono. Cara amico, t'hanno fatto pezzo, sei un pollo. Se ritmo di battuta te lo dà il francobollo. Sulla pasticchetta ti piscio sopra, poi ti cago, la mia rapa è tutta fretta. La scelta che ti do e quindi vado a sé. E rimane sul mio suono se sopra c'è tu sei. Fai come la cappa, simile alla pasta. Vola sulla pollo, ripensa la tua mamma e caccia rime quanto basta. Sì, lo so, lo sai che basta avere in mano il mic. La gola con la storia, uccido a tuo caso mai. Non basta solo giusto e la rima molto tosta. Se faccio una domanda prova a darmi una risposta. Risposta non ne hai, domande ancora meno. Allora cazzo sei se il tuo mic vale zero. La soluzione logica, senti qua come spack, senti la mitraglia. Traia! C'è quanto...